questo è il motivetto di un senza tetto, di quelli che guardi schifato quando passeggi per i vicoli della tua città. Questa è la canzone di chi non ha un padrone, come quelli che ti schifano quando li guardi dalla testa ai piedi. Per una canzone non farai un'offerta, farai la tua protesta, perché ti infastidisce chi canta mentre con il tuo sorriso falso implodi nel tuo piccolo potere. Questo è il motivetto di chi rovista nei cassettoni in cerca di quello che hai buttato perché l'hai comprato ma non ti è servito. Se ascolti è tutto chiaro. Canzone non farai un'offerta, farai la tua protesta, perché ti infastidisce chi canta mentre con il tuo sorriso falso implodi nel tuo piccolo potere. Canzone non farai un'offerta, farai la tua protesta, perché ti infastidisce chi canta mentre con il tuo sorriso falso implodi nel tuo piccolo potere.